Allora. No, veramente. Adesso non alla fine c'è un po' più volare che Monaco. Sì, me lo dico. Quindi domani sera alle 21:40 mi sembra. Meno male, che è tutto lì. Speravamo di essere a casa. Da Monaco, non andavo andare, quindi la compagnia è stata riparata, perché si va andare bellina, a mangiare, vedete che era visto, ma tu sei stato già, ci saranno già i mercatini di Natale, mio è stato tanto, sai, diciamo, che abbiamo bisogno del voucher, bisogna vedere come funziona, in alcuni casi ti possono fare un ti pagano, vai a mangiare ti pagano anche la sera per ricordare. Sì. Altrimenti ti paghi entro certi limiti, ti consegni la ricevuta e poi quando arrivi c'è la procedura del rimborso. Ti è capitato? Forse una volta, non mi ricordo. Mi è capitato sicuramente una cosa simile per me l'avevo perso il bagaglio. Un cornetto. 5 euro. Vediamo.